24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:21 minuti, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, riparte una settimana di 24 mattino, siamo in diretta fino alle 9 con Roberto Scaltritti, oggi ci seguirà in regia. E che dire, di che parliamo oggi nel nostro sondaggio? Vogliamo parlare dell'attualità, la manovra, le tensioni anche nel governo. Ci sono state soprattutto l'intervista di Berlusconi venerdì scorso, tra Berlusconi stesso e Tremonti. Chi vede il rigore della manovra di Tremonti e chi invece, come Berlusconi, dice bisogna guardare anche al sostegno. Tutto questo quando, tra l'altro, oggi sarà una giornata importante anche per i mercati finanziari. Nel nostro sondaggio oggi vi chiediamo che ne pensate. Ha più ragione Tremonti o Berlusconi? Il rigorismo di Tremonti oppure la necessità di guardare anche al consenso elettorale di Berlusconi? Votate su Radio24.it, ne parleremo alle 8:30. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua alle 8:20 minuti. Saluto il presidente dell'Unione delle Province Italiane, Giuseppe Castiglione. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. È presidente anche della provincia di Catania. Insomma, province, presidente, ancora sotto attacco. Ogni tanto rispunta fuori questa cosa. Adesso ci ha provato prima Di Pietro, ora Libero ha lanciato una campagna. Aboliamo queste province. Come ci si sente, presidente? Sempre sotto attacco voi. Ma devo dire che sta polemica sembra strumentale, sembrava ormai alle spalle, stavamo lavorando alla carta delle autonomie in Senato e laddove si ragiona seriamente c'è sempre un ampliamento delle competenze delle province, si parla di governo di area vasta, la necessità di una pianificazione, 5.000 comuni sotto i 3.000 abitanti, c'è la necessità di avere una dimensione ottimale per il governo del territorio, per parlare di pianificazione, per parlare di strategia, e però di tanto in tanto escono queste campagne, abbiamo assistito all'ultima, però stavolta vogliamo andare noi all'attacco, vogliamo preparare noi come Unione delle Province Italiane, lo stiamo già perfezionando, un disegno di legge che di iniziativa popolare, un progetto di legge di iniziativa popolare che possa far luce finalmente sui costi della politica. Ah, beh, cioè le province alla riscossa, cioè dice attaccate voi a questo punto. Ma assolutamente, perché mi pare che c'è un dibattito molto sterile, un dibattito, quello a cui abbiamo assistito in Parlamento, devo dire che è stato un dibattito che non ha mai centrato il problema, che non ha mai detto cosa si vuole fare, come si vuole organizzare la nostra struttura, il nostro assetto istituzionale, il nostro paese, e quindi c'è un attacco gratuito, si fanno delle cifre gratuite, cifre che non hanno nessun fondamento. Noi sul nostro sito in questi giorni abbiamo diffuso i veri dati, quelli del Ministero dell'Economia, il codice Siope, significa le indennità ai consiglieri provinciali, consiglieri assessori provinciali, quindi lì c'è tutto da vedere. Per esempio oggi il Sole 24 Ore titola... Noi andiamo a 110 milioni tutte le indennità agli amministratori in carica. 110 milioni. Oggi il Sole 24 Ore del lunedì oggi titola così: la politica costa 23 miliardi l'anno. La politica. Questi 23 miliardi, la provincia costa il sistema, le indennità agli amministratori, che poi sarebbe il costo della politica, costa appena 110 milioni. E poi devo dire, una polemica me la faccia fare, in questi giorni abbiamo assistito a questo mondo delle consulenze della pubblica amministrazione che viene stimata intorno ai 3 miliardi di euro, e devo dire che allora il vero problema è si vuole le consulenze, ma non solo le consulenze, i 7.000 enti di consigli di amministrazione, aziende, società di servizi, tutto il mondo delle partecipate, che sono costi che obiettivamente, o funzioni che potrebbero essere assolte benissimo. Però presidente, io vorrei ricordare che il presidente Lombardo, il presidente Lombardo della regione Lombardia e della regione Sicilia ha detto le cancello io. Vabbè, ma il presidente Lombardo, si sa, la polemica è più politica che l'aveva detto. Il presidente Lombardo l'aveva detto, per la verità, appena insediato 3 anni fa. Un anno fa aveva annunciato un disegno di legge, ancora non è pronto nemmeno il disegno di legge. La verità è che il presidente Lombardo addirittura penserebbe eliminare le 9 province, magari per fare un centinaio di consorzi di comuni. comuni, qualcosa del genere, di commissariare tutto. Dico solo alcune cifre: noi sulla mobilità, la viabilità e i trasporti spendiamo complessivamente 1.500.000.000, sulle scuole noi spendiamo 2.300.000.000, cioè edilizia scolastica, funzionamento, formazione. Questo poi è il dato vero dei costi. Sì, però questo, Presidente, non è che queste cose verrebbero poi fatte dalle regioni, dai comuni, infatti, cioè non è che verrebbero cancellate queste spese per... Sì, no? Ma io vorrei dire, cioè, le regioni, che già forse se c'è un problema di regioni ipertrofiche, di funzioni che andrebbero alleggerite, sicuramente ci sono, in questo quadro ci sono le regioni. Il tema vero è che ci sono dei luoghi idonei per poter dibattere: c'è il Parlamento, c'è la sede della Carta delle Autonomie, e in sede di Carta delle Autonomie sostanzialmente si potrebbe vedere chi fa che cosa fanno i comuni, cosa fanno le province e cosa fanno le regioni. Senta, su questa vorrei dire anche a proposito di questo, le province, l'Unione delle Province Italiane non è stata mai favorevole all'aumento, cioè al numero all'aumento delle province. Ah sì, perché lì decidono in Parlamento, cioè ci sono i parlamentari che vogliono fare nuove province. Diciamo in maniera molto chiara, le ultime province, quelle di cui si parla spesso, sì, le ultime province le ha fatto con legge il Parlamento. Qualche parlamentare di riferimento, no? Magari qualcuno che vuole d'altronde. Sicuramente. Quindi noi su questo l'Unione delle Province ha avuto una politica sempre molto chiara, e noi fra l'altro abbiamo detto, anche lo abbiamo detto in tutte le sedi, lo abbiamo detto nelle sedi ufficiali, c'è un percorso che è stabilito dalla Costituzione, l'articolo 133 della Costituzione, e su questo, sentiti su iniziativa dei comuni, sentite le regioni, noi sul dimensionamento delle province abbiamo sempre dato un'ampia disponibilità. Senta, Presidente, abbiamo questa manovra come la giudica? Perché la manovra ha tagliato tutto. Perché non si parla più delle città metropolitane? Il tema vero è la istituzione delle città metropolitane. Mi dica cosa pensa di questa manovra che ha tagliato a comuni, regioni, insomma, province, sono tutte province. Province, cioè, la manovra, noi abbiamo dato un giudizio sostanzialmente e complessivamente negativo. Abbiamo detto che l'ultima manovra, quella che già abbiamo conosciuta, che ci siamo lasciati alle spalle, per 24 miliardi la manovra ha pesato per 15 miliardi sugli enti locali. Oggi la manovra ulteriore 9 miliardi e 4 ancora sempre sugli enti locali. Allora questo di fatto penalizza i servizi di trasporto, penalizza i servizi di assistenza, è una gravissima penalizzazione, e quindi noi siamo perché la manovra possa essere corretta, che possano rimanere fermi i saldi, ma che ci sia una correzione. Fra l'altro diciamo in maniera molto chiara che nel momento in cui si mette in discussione il fondo di perequazione, fondo perequativo, è chiaro che il fondo sperimentale di riequilibrio, poi successivamente il fondo perequativo, è chiaro che il percorso che abbiamo immaginato, che abbiamo portato avanti nel federalismo, è un percorso che subisce un gravissimo arresto. Ma Presidente, c'è vede anche lei la speculazione, il momento, cioè insomma, lei è tremontiano o Berlusconi? Perché lei è anche il coordinatore del PDL della Sicilia, no? È tremontiano per il rigore o berlusconiano per il consenso? Noi siamo tutti stati, abbiamo condiviso il rigore nella manovra, però a partire dai 3 miliardi delle consulenze, a partire dai 3 miliardi o 2 miliardi e mezzo di spese di consiglieri d'amministrazione, società partecipate, enti e sotto governi vari, cioè, andiamo a cercare laddove mi permetta una leggere il giornale di ieri con quelle consulenze nel settore pubblico, dice poi se la prendono con le province. Io obiettivamente costo quanto 5 anni di una consulenza affidata ad uno di quei casi citati ieri nella stampa di tutti i giorni, cioè, tutta l'indennità di un presidente di provincia per 5 anni con una sola consulenza l'avrebbe potuto fare. Allora io, Presidente, questo qui la fermo, la ringrazio intanto Giuseppe Castiglione. Noi giochiamo una partita, vogliamo partita che d'attacco. Il paese finalmente apra un dibattito serio sul chi fa che cosa, le istituzioni. Non si può far cassa riformando le istituzioni. Vabbè, allora, vogliamo sensibilizzare, noi diciamo una formula molto semplice: ciò che i cittadini eleggono bisogna rispettare, ciò che la politica delega o nomina, tutti il sottogoverno e il sottobosco della politica, allora su quello bisogna fare. Le province contro il Parlamento, va bene, intanto contro la legge elettorale di nominati, diciamo. I costi della politica vera, quello non... quella che non risponde ai cittadini. Allora, Presidente, la seguiremo in questa battaglia, non si preoccupi. Grazie per essere stato con noi. Grazie Giuseppe Castiglione, il Presidente dell'Unione delle Province Italiane, nonché Presidente della provincia di Catania. Eccoci qua alle 8:34 minuti. Allora, Silvio Berlusconi, venerdì in un'intervista a Repubblica, era stato abbastanza duro nei confronti del ministro Tremonti, no? Colui che pensa di essere un genio e crede che tutti gli altri siano dei cretini, non fa gioco di squadra, pensa ed è preoccupato dai mercati, ma in politica il fatturato si fa con il consenso e non con i voti. Così aveva detto il Premier. Poi cosa è successo? Sono successe alcune cose. Sabato la sentenza di condanna in sede civile alla fine investe in appello. Poi venerdì stesso, quel giorno, il venerdì nero di borsa, rischio speculazione, per cui oggi lunedì siamo qui a mezz'ora dall'apertura dei mercati, tutti con il fiato un po' sospeso. Insomma, l'abbiamo tradotto così il nostro sondaggio. Stare con il rigorismo, il rigore, la tutela dei conti, guardare al pareggio di bilancio in maniera stretta con Giulio Tremonti, oppure Berlusconi ha le legittime pretese a dire: beh, ma così con il rigore di bilancio si rischia di perdere il consenso popolare, quindi anche i voti da parte dei nostri elettori. Berlusconi o Tremonti, che ne pensate? Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? E tra l'altro devo dire che l'85% dei nostri ascoltatori dice: stiamo con Tremonti. Questo è almeno il nostro sondaggio. Votate su radio24.it. Non so se molti votano anche così per spirito anti-berlusconiano, dice stiamo con Tremonti, dovendo scegliere per dare contro Berlusconi. In ogni caso ne vogliamo discutere con il direttore del giornale Alessandro Sallusti. Buongiorno e ben ritrovato. Grazie per essere con noi, Sallusti. Buongiorno. Voglio salutare anche il direttore da pochi giorni, il neo direttore dell'Unità, Claudio Sardo. Direttore, buongiorno e buongiorno, benvenuto buongiorno a Radio 24. Senta, vorrei intanto chiedere a lei, non so se la scelta tra Tremonti e Berlusconi, magari lei dice io su un'ipotetica torre potendo politicamente li butteremmo giù tutte e due qui all'Unità, però mi dica che ne pensa, se il rigore di Tremonti, l'occhio di riguardo ai mercati sia la strategia giusta, oppure Berlusconi abbia legittime aspirazioni a dire: beh, ma così si perdono i consensi. Ma naturalmente non partecipo a questo gioco, però io credo che siamo arrivati a un punto in cui il deficit di credibilità e di consenso politico che ha il governo italiano rendono ancora più ardua una politica esclusivamente di rigore. Io penso che la speculazione di questi giorni contro l'Italia abbiano posto, diciamo, il nostro paese in una zona a rischio e stiano dimostrando che il governo non ce la fa, questo governo non ce la fa e quindi rischia di saltare qualunque ipotesi di gestione della manovra. Questo è un problema insolubile. Io credo che se noi guardiamo i due anni che ci stanno alle spalle, la politica di rigore diciamo che ha adottato Tremonti ha consentito al paese di mantenere una certa tenuta, ha impoverito il paese sul piano degli investimenti, ha ulteriormente fatto abbassare la crescita, la distanza tra il nostro paese e i paesi europei è cresciuta, calcolando che noi nell'ultimo decennio siamo cresciuti meno di tutti. La crescita è la grande emergenza nazionale, l'unico fattore di attenuazione delle politiche di rigore sono stati gli ammortizzatori sociali e che sono stati pagati a scapito degli investimenti delle regioni, insomma questo ricordiamolo, quindi di un impoverimento anche del tessuto di autonomie regionali, locali, diciamo questo è il governo più antifederalista degli ultimi 20 anni. E noi oggi credo che siamo arrivati a un punto in cui non sia possibile pensare alla crescita, né alla crescita né al rigore, perché il governo non ce la fa e quindi credo che siamo arrivati al capolinea e che se questo governo decide di andare avanti in queste condizioni sta mettendo a rischio il paese. Anche se, qualcuno ipoteticamente dice proprio è il momento, almeno leggendo i giornali, anche l'esponente del Partito Democratico, oggi Enrico Letta, per esempio, in un'intervista dice il momento, sarebbe il momento proprio invece di, come si usano queste parole, direttore Sardo, di responsabilità nazionale, no? Per, soprattutto di fronte a, un attacco speculativo, rischi di attacchi speculativi dall'estero, è il momento forse di, no? di questi giochi. Io penso che noi abbiamo bisogno di un governo forte in questo momento, un governo forte con una legittimazione popolare. Io penso che un governo forte possa nascere dalle elezioni. Naturalmente Letta dice una cosa che è una cosa seria, responsabile. Se ad esempio le cose dovessero precipitare e a un certo punto il Berlusconi dovesse alzare le mani e il PDL non fosse in grado di esprimere una leadership o una soluzione alternativa e non fosse possibile andare alle elezioni, io penso che nessuna forza seria, nessuna persona seria potrebbe pensare di giocare contro il paese. Penso che voglia dire questo Letta. Io non credo che la soluzione di un governo tecnico d'emergenza sia una soluzione positiva, nel senso che rischiamo di costruire un'altra soluzione debole. Ma certamente se ci trovassimo di fronte a un default politico così grave, è chiaro che le forze responsabili devono essere responsabili, non è che si può giocare contro l'Italia. Allora, intanto staremo a vedere tra poco proprio l'apertura delle borse. Vorrei da Alessandro Sallusti, intanto direttore, poi commentiamo il vostro titolo, remano contro poi piangono, così oggi titolate, cioè ce l'avete con quelli che secondo voi rovinano in qualche modo l'Italia anche dal punto di vista della credibilità, i Bersani, Di Pietro and Company. Però intanto questa diatriba Tremonti-Berlusconi, venerdì sembrava veramente, cioè questa intervista della Repubblica di Berlusconi nella quale si toglieva qualche sassolino dalla scarpa, lo sopporto da anni, ha detto Di Tremonti, ma che succede? Siamo così davvero allo scontro tra il rigore e il consenso? No, c'è sicuramente un problema di visione strategica e anche un problema caratteriale che non dimentichiamo nei consensi umani e quindi anche nella politica non è così secondario. Le due cose sono assolutamente conciliabili, il rigore e il consenso possono andare anche a braccetto. Certo, c'è un rigore che va nella strada del consenso e un rigore che va invece in direzione opposta al consenso. La stessa manovra della stessa entità può andare su un binario invece che su un altro. In questo in effetti c'è una divergenza tra la maggioranza e il suo ministro delle finanze. La maggioranza chiede non è che non vuole dei tagli o non vuole il rigore o vuole mettere a rischio il paese, però chiede che questi tagli e questi sacrifici e la ricerca di risorse vada in una direzione, non dico neanche tanto, ma leggermente diversa da quella che ha individuato Tremonti, tant'è vero che il ministro si è detto disposto a rivedere la manovra in Parlamento a patto che, a saldo zero come dice lui, a patto che alla fine i conti tornino lo stesso. Per cui è un gioco di parole dire o Tremonti o Berlusconi, in realtà le due cose sono assolutamente compatibili. Senta, a proposito di Tremonti ha parlato di, questo è emerso dalle carte, della vicenda sulla richiesta d'arresto del PDL milanese, di rischio di metodo boffo. No, non vorrei fare la fine di boffo, questo avrebbe detto in uno degli interrogatori, in una delle deposizioni quando è stato chiamato dai magistrati. Sallusti, quando si parla di metodo boffo si parla di voi. Quando si parla di metodo boffo si parla di una sentenza di un tribunale italiano che ha condannato boffo per molestie telefoniche a sfondo sessuale. Io credo che Tremonti non è che debba temere dei metodi boffo, casomai debba temere quello che hanno combinato i suoi collaboratori, non certo lui, non risulta in alcun modo che lui abbia combinato alcunché se non quella leggerezza di dormire, di soggiornare in una casa non sua, che è cosa diversa da avere una casa gratis. Lui ha soggiornato in una casa, certo, di un'altra persona. Ecco, per cui casomai Tremonti deve temere quello che hanno combinato i suoi collaboratori, non tanto quello che scrivono i giornali. Sardo, direttore dell'Unità, c'è da parte di Tremonti, secondo lei, una perdita di credibilità per tutta questa vicenda che sta coinvolgendo un suo ex collaboratore, il suo ex stretto collaboratore, Marco Milanese? Beh sì, certamente questo elemento incide, però io credo che la ragione principale della perdita di credibilità di Tremonti sta nel fatto che viene attaccato politicamente dalla sua stessa maggioranza. Io credo che l'indebolimento di Tremonti ha due fattori principali dal punto di vista politico. Uno è l'umore della Lega di queste settimane, cioè dopo il voto la Lega guarda molto alle proprie ferite e ancor meno di quanto ha fatto, che già era molto poco, all'interesse pubblico, collettivo, cioè guarda a se stessa, ha paura di una perdita di credibilità, è un po', diciamo, finito la luna di miele del partito di lotta e di governo, diciamo che andava nel nord a raccontare un sacco di balle e poi a Roma faceva il contrario. Ora chiaramente questa posizione sta creando problemi, i dirigenti della Lega sono molto nervosi ed erano sicuramente uno dei principali sostegni di Tremonti, era il principale sostegno politico. La seconda questione è il contrasto all'interno del PDL, le cose che ha detto poco fa Sallusti e le cose che scrive il giornale sono molto rappresentative dell'umore di una parte, forse addirittura maggioritaria del PDL verso Tremonti, e quindi è chiaro che un ministro del Tesoro che in Europa ha fin qui rappresentato, preso parte, addirittura noi dobbiamo ricordare che il rigore, il surplus di rigore che è stato promesso all'Europa, questi 40 miliardi di cui si parla, il pareggio di bilancio fissato nel 2013-2014, non è iscritto nelle norme europee. Cioè, noi potevamo anche, lo dico in linea astratta, non perché non si possa rinegoziare oppure uno, però diciamo in linea astratta noi potevamo anche presentare un programma di riforme più rigoroso e di rientro in un tempo successivo. Sì. Cioè, noi abbiamo stabilito, abbiamo fissato il pareggio di bilancio nel 2013 cercando di anticipare i mercati perché si temeva un'azione speculativa e quindi abbiamo, diciamo, fatto delle promesso delle operazioni di risanamento e questo, diciamo, Tremonti lo ha fatto perché aveva alle spalle, era l'uomo forte del governo. Ora il problema è che non è più l'uomo forte, cioè, del governo. Non manca più questa legittimità all'interno della stessa squadra di governo. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora è salita di un punto percentuale, l'86% dei nostri ascoltatori dice stiamo con il rigore di Tremonti. Vorrei sentire due ascoltatori che ci hanno chiamato all'800240024. Massimo dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. E a tutti i radioascoltatori. Ma io volevo dirle questo, che anch'io sono d'accordo con l'86% di stare dalla parte di Tremonti, anche se premetto non mi sono simpatici né l'uno né l'altro, cioè né Tremonti né Berlusconi. Comunque credo che in un momento delicato come questo la persona da appoggiare sia senza dubbio Tremonti. Non condivido, le dico la verità, il metodo, per esempio, che lui ha attuato o che vuole attuare, per esempio quello di partire a toccare pensioni intorno ai 1.400 euro lordi al mese, perché credo che sia sicuramente una base molto ampia, ma è la base che sta soffrendo più di tutti gli altri. Sì. Lei dice, vabbè, lei prende un aspetto, partire, diciamo, della manovra. Alzare un pochino l'asticella e poi soprattutto una volta per tutte fare una vera e costante lotta a quello che è uno dei tumori della nostra nazione, che è l'evasione fiscale. L'evasione fiscale. È una cosa vergognosa. È inaccettabile, perché non si può pensare di tenere in piedi un'evasione fiscale di questa portata. Va bene, grazie Massimo. Andiamo a Pavia da Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono dispiaciuto, Tremonti aveva un'ottima occasione per davvero fare un taglio robusto ai costi della politica. Secondo me, presentandosi alle prossime elezioni, avrebbe preso quel 28% di elettori che non votano più da parecchi anni, e io sono tra quelli, e non sono per niente d'accordo con l'ascoltatore di prima, con le evasioni fiscali, eccetera. È ora di tagliare alla grande le tasse, sia per le industrie, che stanno tutte a galla per un pelo, sia a chi produce reddito. Guardi che però sulla questione, lei legga oggi il Sole 24 Ore che titola: lo stipendio dei parlamentari sarà dimezzato, questo dalla prossima legislatura, se si sta al parametro delle spese. Quella è una virgola delle spese. Cosa doveva fare? Cosa doveva togliere? I soldi che muovono i politici buttano miliardi. Scusi Giuseppe, però concretizzi, cioè cosa doveva fare? Ma mi dica cosa doveva fare, cioè concretizzi, buttano i soldi è una cosa che non ha senso, detta così, no, buttano i soldi. No, beh. Cioè uno può tagliare le province, può tagliare, eliminare le regioni, può dimezzare i parlamentari, ma sono cose che non è che può fare Tremonti, deve fare il Parlamento. No, chiaro. Diciamo che avrebbe comunque potuto servire una polpetta che sarebbe stata indigesta per tutti tranne che per lui. Ah, e qualche cosa di quella polpetta questi avrebbero dovuto ingoiare. Tipo togliere i vitalizi. No, ma è chiaro, ma tante delle cose devono essere fatte dal Parlamento stesso e quindi non possono essere fatte dal Ministro dell'Economia. In ogni caso, Alessandro Sallusti, direttore del giornale, allora oggi è davvero così, cioè voi attaccate coloro che per mesi hanno detto finiamo come la Grecia ed ora piangono. Chi sono questi che attaccate? Cioè adesso la speculazione è colpa dei vari Di Pietro e Bersani, il rischio speculazione? Questo mi sembra un dato di fatto, anche il ragionamento che ho sentito dal collega dell'Unità conferma questa tesi, cioè la sinistra e purtroppo anche il Partito Democratico, che dovrebbe essere la più moderata e responsabile dell'opposizione, e mesi che non passa giorno che non cerchi non solo di fare opposizione, che è cosa assolutamente evidentemente legittima, ma di delegittimare la maggioranza e quindi di delegittimare questo paese. E a furia di gridare e gridare, poi magari qualcuno in Europa, non solo nel paese, ma in Europa ci crede. Questo è un atteggiamento assolutamente irresponsabile. E anche la cosa detta ieri da Letta, che dice noi siamo pronti a un governo a prendere posizioni responsabili, è molto furbesca, perché non si tratta, Letta non vuole condividere un momento difficile con la maggioranza, vuole prendere il posto della maggioranza, si accomodi ma passi per le elezioni, cioè non pensi di poterlo fare attraverso una cosa molto italiana che si chiama il ribaltone. Su questo Claudio Sardo, la delegittimazione del paese alla base, dice Sallusti, poi di quello che sta succedendo, no? A furia di gridare contro il proprio paese, poi qualcuno da fuori pensa che questo paese sia davvero lo sfascio, come non è. No, sinceramente non sono d'accordo, ritengo molto difensivo e ingeneroso questo giudizio, perché l'opposizione fa il suo mestiere, contrasta la maggioranza, il problema è che il governo attuale si regge sul nulla, cioè il vero ribaltone l'ha fatto Berlusconi è a capo di un governo del ribaltone, nel senso che si regge in Parlamento e alla Camera con un numero decisivo di deputati che sono stati eletti con l'opposizione e non avrebbe più la maggioranza parlamentare senza un istituto che non ha uguali in Occidente, che si chiama premio di maggioranza e che ha un solo precedente storico in tutti i sistemi istituzionali del mondo, che si chiama la legge Acerbo. Però molti votati con l'opposizione, si potrebbe dire, allora dall'altra parte ci sono i Finiani che erano stati votati con Berlusconi. Ma capito, ma se i Finiani fanno delle scelte e rompono una solidarietà di governo, cioè è una responsabilità loro. Cioè se una maggioranza cade, loro hanno preso il premio di maggioranza con i Finiani, se i Finiani sono usciti Berlusconi si regge col premio di maggioranza, ma non gli basta, cioè ha dovuto fare l'operazione Scilipoti. Però da quel punto di vista i numeri ormai mi pare di capire che reggono, perché tutte le volte che c'è la fiducia, anzi aumenta, voglio dire, sarà anche un mistero, però dal punto di vista dei numeri sono abbastanza blindati, mi pare di capire. Io non discuto la legittimità del governo della maggioranza di Berlusconi. I parlamentari hanno fatto le loro scelte, mi sembra che negli ultimi tempi, sia pure in modo fragile, con una piccola maggioranza numerica, il governo dispone della maggioranza, il problema è che non ha la forza per governare, perché il primo degli ascoltatori che noi abbiamo sentito, che ha detto delle cose sagge, che io condivido, però insomma a chi si rivolge? Come può un governo al tempo stesso avere la credibilità in Europa per negoziare il nostro... il rientro dal deficit, come può al tempo stesso fare un'operazione che tenga insieme rigore e sviluppo, questo è un vero mistero. Intanto, perché, guarda, io posso dire una cosa, siamo in chiusura, molto rapidamente. Io penso che la linea di rigore esclusivo sia una linea fallimentare, cioè se noi abbiamo avuto un'esperienza in questi 10 anni e se vediamo in quale difficoltà si sta rivoltando la Grecia e le cose che potrebbero accadere, se ad un paese in difficoltà si chiede soltanto rigore, si rinvia soltanto il tempo, la crescita è il nostro priorità di questo paese, la priorità di questo paese è crescere, il problema del rigore è che dobbiamo crescere facendo del rigore. Quindi... Intanto vedremo tra poco anche l'apertura di borsa, ovviamente da tenere sotto controllo. Io ringrazio Claudio Sardo, il direttore dell'Unità, e Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, per essere stati con noi. Che dire, con Alessandro Longoni in redazione, Roberto Scaltritti in regia, diamo la linea a Oscar Giannino. Voi ci trovate su 24 Mattino, la nostra pagina Facebook, e domani alle 7:20.